Il terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. Per la cena Hans Castorp si cambiò con cura e poi fra Miss Robinson e la maestra mangiò una julienne, carne al forno e arrosto, con contorni, due fette di una torta che conteneva di tutto, pasta di amaretti, mascarpone, cioccolata, conserva di frutta, marzapane e dell'ottimo formaggio su fettine di pane nero. E anche questa volta si fece portare una bottiglia di Kulmbach. Ma quando ebbe bevuto metà del calice, capì chiaramente che era ora di andare a letto. La testa gli ronzava, le palpebre erano di piombo, il cuore pulsava come un piccolo timpano, e per suo tormento si mise in mente che la bella Marusia, la quale chinando la fronte si copriva il viso con la mano ornata del piccolo rubino, ridesse di lui, benché si fosse tanto sforzato di non dargliene motivo. Come da molto lontano udì che la signora Storr diceva o osservava una cosa così folle da farlo dubitare nella sua mente confusa se udiva bene o se le affermazioni della Storr non si trasformassero in assurdità dentro la sua testa. Lei dichiarava infatti di saper preparare 28 diverse salse di pesce. Aveva, disse, il coraggio di affermarlo, benché suo marito le avesse vietato di parlarne. Non dirlo, le avrebbe detto, nessuno ti crederà o se ti credono apparirai ridicola. Ciò nonostante ora lo voleva dire e confessare che era capace di fare 28 salse di pesce. Hans Castorp sembrò una cosa spaventevole. Allibì, si portò una mano alla fronte e dimenticò di finire di masticare e di inghiottire un boccone di pane nero con Chester che aveva in bocca. Quando si alzarono da tavola, ce l'aveva ancora. Uscirono dalla porta vetrata a sinistra, quella dannata che era sempre sbattuta e dava direttamente nell'atrio anteriore. Quasi tutti passarono di lì, poiché si vide che nell'ora dopo cena c'era una specie di ritrovo nell'atrio e nei salotti adiacenti. La maggior parte dei malati formava qua e là piccoli crocchi. A due tavole a battente coperte di panno verde si giocava, a domino sull'una e a bridge sull'altra, e c'erano soltanto giocatori giovani, fra i quali Albin e Ermine Kleefeld. Nel primo salotto c'erano anche alcuni divertenti apparecchi ottici, un panorama stereoscopico attraverso le cui lenti si vedevano fotografie collocate nell'interno, per esempio un gondoliere veneziano in rigida ed esangue corporeità, in secondo luogo un caleidoscopio a cannocchiale alla cui lente si accostava un occhio. Bastava muovere leggermente una ruota per ottenere un'illusoria e fantastica alternativa di stelle e arabeschi multicolori. Infine un cilindro rotante, nel quale si infilavano strisce di pellicola cinematografica e guardandovi dalle aperture laterali si potevano vedere un mugnaio che si abbaruffava con uno spazzacamino, un maestro che puniva un alunno, un funambolo sulla corda e una coppietta di contadini che eseguiva una danza agreste. Castorp, le mani fredde sulle ginocchia, guardò a lungo in ciascun apparecchio. Si trattenne anche un po' alla tavola del bridge, dove l'inguaribile Albin, con gli angoli della bocca all'ingiù e con gesti sprezzanti da uomo navigato, maneggiava le carte. In un angolo era seduto il dottor Krokowski, in animato e cordiale colloquio con un semicerchio femminile, del quale facevano parte la signora Storr, la Iltis e la signorina Levi. I commensali della tavola dei russi a modo si erano ritirati nel salottino attiguo, che soltanto portiere separavano dalla stanza da gioco, e vi formavano un'intima combriccola. C'erano, oltre a Madame Chauchat, un uomo floscio con la barba bionda, il petto concavo e gli occhi bovini, una ragazza bruna di tipo originale e comico, con orecchini d'oro e arruffati capelli lanosi. C'erano inoltre il dottor Blumenkohl, che si era aggregato a loro, e anche due giovanotti dalle spalle spioventi. Madame Chauchat portava un abito azzurro, col colletto bianco, di pizzo. Al centro del suo gruppo stava seduta sul sofà, accanto al tavolino rotondo, in fondo alla stanzetta, il viso rivolto alla stanza da gioco. Castorp, che non poteva vedere quella maleducata senza disapprovarla, andava riflettendo. Mi ricorda qualche cosa, ma non saprei dire quale. È lecito, ingegnere, informarsi come sta? Domandò Settembrini, che le mani nelle tasche dei calzoni aveva girellato fra i pazienti e ora si era fermato davanti a Castorp. Portava ancora la giacca grigia di rattina e i calzoni chiari a quadretti. Accompagnò le parole con un sorriso e Castorp provò di nuovo come un senso di disinganno alla vista di quelle labbra sottili e beffardamente increspate sotto la curva dei baffi neri. Ma guardò l'italiano con occhi alquanto imbambolati, le labbra inerti e gli occhi venati di rosso. «Oh, è lei!» disse. «Il signore della passeggiata di stamane, che lassù, è vicino a quella panca, vicino al ruscello. Sì, sì, l'ho riconosciuta subito!» Settembrini sorrise. «Beh, le è parso divertente questo tenore di vita?» «Divertente e noioso, secondo», rispose Castorp. «Sa, talvolta è difficile distinguere. Non mi sono affatto annoiato. Per questo c'è troppo brio e movimento, quassù, fra voi. Si sentono e si vedono tante cose nuove e singolari. Eppure, d'altro canto, ho come l'impressione di non essere qui da un giorno, ma da parecchio tempo. Anzi, mi pare addirittura di essere diventato qui più vecchio e saggio.» «Anche più saggio?» ripeté Settembrini, sollevando le sopracciglia. «Mi permette una domanda? Lei quanti anni ha?» «Quanti anni? Io? Sono naturalmente nel 24°.» «Nel 24°, ha detto. Già. Mi consenta ancora una domanda, o se vuole una modesta proposta. Siccome questo soggiorno a quanto pare non le conferisce, siccome se non mi inganno non si sente fisicamente e neanche spiritualmente a suo agio qui fra noi, che ne direbbe di rinunciare a invecchiare qui se insomma oggi stesso questa notte facesse le valigie e se ne andasse domani coi direttissimi secondo l'orario?» «Dice che dovrei partire?» domandò Castorp. «Se sono appena arrivato. Ma no, come vuole che possa giudicare dopo il primo giorno?» A queste parole lanciò per caso uno sguardo nella stanza attigua e vi scorse la signora Chauchat di fronte, gli occhi stretti e i larghi zigomi. «Che cosa?» pensò. «Che cosa e chi mai mi ricorda?» Ma nonostante lo sforzo, la sua testa affaticata non seppe rispondere. «Naturalmente non mi riesce proprio facile assuefarmi quassù tra voi», soggiunse. «Era da prevedere, ma perdermi d'animo per questo subito e perché forse sarò qualche giorno un po' confuso e accaldato, via, mi dovrei vergognare. Mi parrebbe di essere codardo, senza dire che sarebbe contro il buon senso. Ci pensi anche lei?» A un tratto parlava con energia, agitando le spalle, pareva volesse indurre l'italiano a ritirare espressamente la proposta. «M'inchino al buon senso!» esclamò Settembrini. «Ma m'inchino anche al coraggio. Le sue parole si possono accettare e sarebbe difficile fare obiezioni plausibili. D'altronde ho avuto occasione di osservare casi veramente belli di assuefazione. C'era l'anno scorso una certa Kneifer, Ottilie Kneifer, una signorina di buona famiglia, figlia di un alto funzionario statale. Era qui da un anno e mezzo e si era adattata così bene che quando fu perfettamente guarita, poiché anche questo avviene, qualche volta si guarisce quassù, non voleva andarsene a nessun costo. Pregò e scongiurò il direttore di poter rimanere ancora. Ma siccome c'era una notevole affluenza e la sua camera era necessaria, le sue preghiere furono vane e si insistette nel dimetterla perché guarita. Si accomiatò piangente e disperata, inconsolabile alle parole dei suoi genitori. «Che vengo a fare laggiù?» andava ripetendo. «Qui sono a casa mia!» Non so come sia andata a finire. «Ma ingegnere, lei non mi ascolta, mi pare. Se non mi inganno, fa fatica a reggersi in piedi. Tenente, eccole qua suo cugino.» Si rivolse a Joachim, che stava avvicinandosi. «Lo accompagni a letto. Unisce il buon senso al coraggio. Ma questa sera è un po' fiacco. Castorp seguì il cugino nella sua camera. Il pavimento del corridoio con la guida di Cocco ondeggiava mollemente sotto i suoi piedi, ma ciò non gli diede fastidio. Si sedette nella grande poltrona fiorata di Joachim, in camera sua ce n'era una eguale, e accese un Maria Mancini. Sapeva di colla, di carbone ed altro ancora, soltanto non di quello che avrebbe dovuto. Ciò nonostante, egli continuò a fumare. Mentre guardava Joachim che si preparava alla cura, indossava la giubba da casa simile a una casacca militare, si infilava sopra questa un vecchio cappotto e con la lampada del comodino e il libro di esercizi russi usciva poi sul balcone, dove attaccava la lampadina alla presa e il termometro in bocca si avvolgeva con stupefacente abilità in due grandi coperte di cammello stese sulla sedia a sdraio. Con sincera ammirazione Castorpe osservò l'agilità con cui procedeva. Ripiegò anzitutto le coperte, l'una dopo l'altra, da sinistra per il lungo sopra di sé fin sotto le ascelle, poi dal basso sopra i piedi e infine da destra, in modo da formare un involto perfettamente pari e liscio, dal quale sporgevano soltanto la testa, le spalle, le braccia. «Lo fai egregiamente», lodò Castorp. È questione di esercizio, rispose Joachim tenendo mentre parlava il termometro coi denti. Imparerai anche tu. Domani ci dobbiamo procurare un paio di coperte per te. Le potrai sempre usare, laggiù. E qui, da noi, sono indispensabili. Tanto più che non hai un sacco a pelo. Ma io di notte non mi corico sul balcone, obiettò Castorp. Non lo farò, te lo dico subito. Mi sembrerebbe troppo bizzarro. Tutto ha un limite. E in qualche modo devo pur far notare che sono venuto soltanto per farvi una visita quassù. Resto qui, ancora un po' a fumare un sigaro, come si conviene. Ha un sapore pessimo, ma so che è buono. E tanto mi deve bastare per oggi. Sono quasi le 9, purtroppo. È vero, non sono ancora neanche le 9. Ma alle 9:30 si può dire che sia quasi l'ora normale di andare a letto. Un brivido di freddo lo scosse. Uno, e poi parecchi, in rapida successione. Castorp balzò in piedi e corse a guardare il termometro alla parete, come se volesse coglierlo in flagrante. Nella camera c'erano 9 gradi Reaumur. Toccò i tubi e li trovò morti e freddi. Borbottò qualche frase confusa che, pur essendo in agosto, era una vergogna non dare il riscaldamento, che non conta il mese indicato dal calendario, bensì la temperatura, e che in realtà faceva un freddo cane. Ma aveva il viso acceso. Si sedette, si alzò di nuovo, brontolando chiese il permesso di prendere la coperta del letto di Joachim e, seduto, se la stese sulle gambe. Così rimase, avendo caldo e freddo, torturandosi con quel sigaro disgustoso, e lo prese un senso di grande miseria. Gli pareva di non essersi sentito mai così male. «È una disperazione», mormorò. All'improvviso però fu colto da un sentimento stranamente esagerato di gioia e di speranza. E quando l'ebbe provato, stette là, soltanto ad aspettare che si ripetesse. Non si ripeté, invece. Rimase solo la miseria. Si alzò, pertanto, ributtò sul letto la coperta di Joachim, mormorò con le labbra stirate un «Buonanotte, e bada di non gelare, e mi vieni a prendere domani per la colazione». E, barcollando, passò dal corridoio nella propria camera. Mentre si spogliava, si mise a cantare a fior di labbra, ma non per allegrezza. Macchinalmente e senza pensarci bene, sbrigò le doverose faccenduole dell'uomo civile che si corica. Versò dal flacone da viaggio un colluttorio di color rosso chiaro in un bicchiere e si gargarizzò. Si lavò le mani col suo ottimo e morbido sapone alla violetta e si infilò la lunga camicia di batista con le cifre HC ricamate sul taschino. Poi si coricò e, spenta la luce, lasciò cadere la testa calda e balorda sul guanciale dove era morta l'americana. Thank you. posso addormentarmi tranquillamente, pensò. Questa sera staranno quieti, me lo riprometto con certezza. Ma quelli non diedero retta. D'altronde egli non l'aveva pensato sul serio. Anzi, a dire il vero, non li avrebbe neanche compresi da parte sua se fossero stati tranquilli. Ciononostante dette in mute esclamazioni del più vivo stupore a quello che udiva. Inaudito, esclamò senza voce. Un'enormità! Chi avrebbe creduto possibile un fatto simile? E ogni tanto partecipava sussurrando fra i denti alla insulsa melodia d'operetta che gli giungeva ostinatamente alle orecchie. Più tardi arrivò il sonno, ma con esso vennero le arruffate visioni del sogno, ancora più arruffate che la prima notte, dalle quali più volte si riscosse con spavento o inseguendo un pensiero ingarbugliato. Sognò di vedere il consigliere aulico Behrens che con le gambe storte e le braccia penzoloni passeggiava per i viottoli del giardino, adattando il passo lungo e quasi monotono al suono di una marcia lontana. Mentre si fermava davanti a Castorp, portava gli occhiali con lenti spesse e rotonde e farneticava dicendo cose assurde. Borghese, naturalmente, diceva e senza chiedere permesso, abbassava con l'indice e il medio della sua manona una palpebra di Castorp. Borghese rispettabile, l'avevo notato subito, ma non privo d'ingegno, no, non privo d'ingegno, per la superiore combustione generale. Non lesinerebbe gli annetti di servizio quassù con noi. Beh, e ora, opla, signori, e avanti con la passeggiata. Parve poi al sognante di trovarsi nel cortile della scuola dove per tanti anni aveva passato gli intervalli fra un'ora e l'altra e di essere sul punto di farsi prestare una matita da Madame Chauchat, che pure era presente. Questa gli dava la matita rossa, ridotta a metà, infilata in un astuccio d'argento, raccomandandogli con voce amabilmente roca di restituirglielo assolutamente dopo la lezione. E mentre lo guardava con gli occhi stretti e azzurro-grigio-verdi sopra i larghi zigomi, egli si liberò dal sogno con uno strappo violento, perché aveva trovato e voleva ficcarsi in mente chi e che cosa essa gli ricordava con tanta vivezza. In fretta mise l'intuizione al sicuro per l'indomani, poiché capiva che il sonno e il sogno si impadronivano ancora di lui. E ben presto si trovò in condizioni di dover cercare scampo dal dottor Krokowski, che lo inseguiva per fargli l'analisi della psiche, di cui Castorp aveva una paura folle, veramente insensata. Sfuggiva al dottore coi piedi impacciati lungo le pareti di vetro attraverso gli scomparti del balcone. Salvata a rischio della vita giù nel giardino nell'angoscia, tentava perfino di arrampicarsi sull'asta marrone della bandiera. E nel momento in cui l'inseguitore lo afferrava per i calzoni, si svegliò, tutto sudato. Ma quella notte Castorp fece un sogno addirittura due volte, e tutte e due le volte nella stessa identica maniera. La seconda volta verso il mattino. Era seduto nella sala dalle sette tavole, allorché la porta vetrata si chiudeva con immenso fracasso e Madame Chauchat entrava, in suedar bianco, una mano in tasca, l'altra sulla nuca. Ma invece di andare verso la tavola dei russi a modo, la maleducata si dirigeva senza far rumore verso Hans Castorp e in silenzio gli porgeva la mano da baciare. Ma non gli porgeva il dorso della mano, bensì la palma, e Castorp baciava quella mano, tutt'altro che raffinata, un po' larga, con le dita corte e la pelle irruvidita ai lati delle unghie. In quella lo prendeva di nuovo da capo a piedi quel sentimento di smodata dolcezza che lo aveva colto quando per prova si era sentito libero dal peso dell'onore e aveva assaporato gli immensi vantaggi della vergogna.